avere con l'antenna, ma nemmeno PEP, non esiste proprio. Ma non è che invece questa è un'altra cosa, no? Come si dice? È un qualche altra cosa, perché mi sembra troppo strano, guarda. No, è quello. Allora, quello che l'ha fatto è presa da un sito di un radioamatore che aveva una Venom, gli ha tolto la bobina, quella che vedi tu, e al posto della bobina gli ha messo un balloon per trasformarla in un'antenna HF. E quella era la foto della bobina originale. Capito? Lui l'ha tolta e ha messo un balloon, quella col toroide, con l'avvolgimento in rame, eccetera. Tutta roba che sanno fare loro. Non può seguire una bobina che aveva sempre da... che è stata colonia di sciogli dubbi che vede. Sì, infatti, guarda, quello secondo me è 300 watt in banda laterale, cioè con i watt non fissi. Fissi io ne darei 150. Poi mi ha detto, Gianni, mi pare che Franco l'aveva provata con 300 watt, Franco California, mi ha detto 300 watt di fronte a lui l'ha fatto, con la Venom, però questi 300 watt non so se siano in AM, se siano in SSB, con che strumento sono stati misurati, se AM è misurato col picco che avevo usato solo per l'SSB e col PEP, scusa, vabbè, già avete capito. Vabbè, sempre chi sa potenza, forse c'ha, come si dice, un qualche altra cosa, c'ha quello di Franco, poi è quello di 5 ottavi, non è 4 ottavi. Sì, 5 ottavi, però la bobina è sempre quella, cioè il diametro è quello. No, a me interessa come è stato misurato il wattaggio, a me 300 watt continui, non lo so, a meno che non fai passaggi brevissimi, ma vabbè. Va bene, Claudio non è più entrato, Antonello nemmeno. Della ringo c'ha il filo. Sì, almeno, però vedi, la Ringo c'ha quel filo che è già molto, molto più grosso di questa buccaria che vedi nella bobina della Venom. Comunque funziona, se uno non ha la mania di watt, basta avere un 747 e con la Venom vai di lusso, di super lusso, vabbè, tra virgolette. Diciamo, relativamente al costo, relativamente al costo però dell'antenna. Certo, se li prendi a Grazioli rende di più, ma la paghi 200 euro una 5 ottavi. Capito, quell'antenna a miraglia fatta con materiale buono, la Grazioli 5 ottavi oppure quella 7 ottavi d'onda della aspetta, com'era il coso system, ma non mi viene il nome. Adesso parliamo una buona antenna. Aspetta, non ti ho capito. Anche la Super Lem è una buona antenna, è robusta. Sì, quella che ha, che l'ha messa, il doppio room mi pare. Sì, ma infatti, un peccato che la Mantova non le fa più, se no passava una Mantova. Mantova 1, Mantova 5, Mantova Turbo, senza arrivare a 200 e più euro per un'antenna. Vabbè. E comunque sono pesanti quelle antenne lì, sono impegnative, cioè solo per se vuoi fare un'installazione con pinanti, con coso, se no è pericoloso. Invece la Venom, quando date mano a Gianni, vabbè, è l'antenna dov'è? Leggerissima. Lo so. L'ho piazzata al volo, 10 minuti dall'orologio brutto. Però. Sì, anche per installazioni temporanee, test, cose, che ne so, poi su una collina in macchina, poi l'antenna, che non sia un'antenna da macchina, sai, un paletto appresso, la monti, attacchi il PL e c'è l'antenna più lunga, insomma. Cosa volevo dire? Ora non me ne metto più. Vogliamo farci il capo a brodo. Testa in brodo, non testa in cassetta, testa in brodo. Allora, siete pronti per la quarta dose? Ma almeno se ti dà attaccare in culo. Sì, sì, dillo. Digli prende la rincorsa via Milano direttamente, la punta da sopra a me dove c'è l'atrio. Speranza stava piangendo online, comunque dai giornalisti che gli hanno mandato minacce di morte, a minimo. Ma che cazzo, è fighissi, così va sulle me, figli in balo puro. Io Speranza, io lo chiamo la scimmietta, perché d'aspetto un po' mi richiama una scimmietta. A me mi pare un coglione. Oh yeah. Con tutte le cose faccio in capo, solo a te devo pensare, per carità. Oh yeah. Oi. Crocro. Poi notizie dal mondo, non so, non confermate, che in Cina forse si stanno allargando con questa storia dei meriti, dei crediti, stanno facendo tutto in uno. I crediti sociali legati alla carta di credito, legati al Green Pass o simili. Praticamente se non sei un cittadino obbediente non ti faranno manco già i tuoi soldi con la carta di credito. Questi sono. E qua non aspettano altro, qua in Europa si stanno già spugnettando, sperando di attuare una cosa del genere. Già è tenuto tutto al caldo, non ti preoccupare. Oh, yeah. Per carità, che se roba di deriva, oh, yeah. Niente succede per caso. Oh, yeah. Bau, miccio. Nord Sirden. Ma che non si ammazza nemmeno quanto non è che si mette di merda. Attenzione Antonio Bombolo, se ascolti questa piccola stazioncina cambio basso. Ma che fino? Ciao Marco, tu sì che sei orecchie fine. Che avevo lo squarciafilo a filo, sentivo passavi, credo che fosse uno di propagazione, perché ogni tanto arriva qualche bomba dal sud Italia. Sì, Santiago 6 e mezzo, vediamo se ti copre. Antonio, lo copi Tino e poi la posizione, Tino? Sì, che lo copio. Ciao Tino. Sì, la posizione QTH a casa, però seconda radio, stazione piccolina, dai, in ascolto. Ah, ok. Sì, 6 e mezzo, il segnale 6 e mezzo, infatti non sapevo, credo fosse in trasferta col campo, non so, da qualche parte. Boia, c'è anche Gianni, vai per i saluti a Tino. Ciao Tino, alias Gianfranco la scimmia, buonasera. No, quello è il mio, ciao. Ascolta, attimo un controllo se cambia qualche cosa, guardate lo smitter per cortesia, adesso è mezzo attaccato, ma l'antenna è una bufala. Così è staccato, guarda, così è staccato, 1, 2, 3, ola, adesso gli diamo un aiutino, se fa, non so se funziona, 6 e mezzo, mezzo Santiago di differenza, smitter a Lancetta. Praticamente Nisma, dai, non va bene, va bene. Tino, mi senti? Ehi Antonio, ciao, salutone. Papà, qua sei 4, dai. Comunque ti sento lo stesso, perché io non sono a casa, Sì, lo so, dai, sono entrato a salutarvi. Riprendete però voi, dai, rimango in QRX che mi fate compagnia all'ascolto. Ciao. Tino, però, vabbè, se lo conti in Santiago è poco, se lo conti in decibel sono 3 decibel di differenza, è un'enormità. Ma vai che uno, secondo me non sta andando questo 747, se no dovrebbe andare ancora di più. Ah, se è quello sì, molto di più, dovresti passare da 6 a circa 8, dai, 8, ecco sì, non sta andando, no, decisamente. Guarda, adesso provo a cambiarne un altro se funziona, se no vogliono controllarti un pochino i MOSFET. Prova un po', già siamo qua. E comunque, cosa ce l'hai, funziona bene, poi, chissà cos'è, la bombina, va. anch'io sono rimasto, eppure lo sento che avevo visto un commento di una persona che l'ha avuta, gli si è sfasciata dopo un mese, l'ha aperta e ha descritto la bobina in quel modo, dice un filo sottilissimo avvolto su un coso di cartone, su un tubo di cartone. Uguale, questa foto l'ho trovata dopo, per caso, cercando sui forum. E vabbè, comunque funziona, cioè costa poco, funziona per quello che costa, capito? E poi non è poco, magari non lo so, comunque per il prezzo si può comprare. Non lo so, che dai Franco, però sempre funziona sempre. E le stazioni adesso sono sempre basse. Vabbè, però quello te l'ho spiegato tanto. Stazionare basse su troppi canali vuol dire efficienza bassa dell'antenna. A troppe persone interessano le stazionarie basse e boh. E non è quello l'efficienza dell'antenna. Vabbè, dai. Qua da 26 a 28, 1 e boh, non si muove. Cioè 2 MHz di larghezza di banda 1. 1 e 1, o 1 sta 1. 1 sta 1, non siamo per il Marco, ma Lago, Marco. Da 26 spiccioli sino a 28, sempre chi dà ragione. Non si muove. Mamma mia che cosa l'onfia. Praticamente è un carico fittizio. La usare come carico fittizio per testare. Vabbè, comunque irradia, cioè ti sento, non è che. Vabbè. Comunque. Guarda, è talmente veloce da montare che bisognerebbe sempre averne una di scorta per qualsiasi cosa. Adesso vediamo se in campagna va tutto bene per installarla lì e poi si vedrà, dai. È veloce da montare quella. Sì, guarda, la tieni con una mano, anche la 5 ottavi la tieni con una mano per fissarla al palo, una cosa sì, leggera. Ma carico fittizio non è possibile perché l'antenna esce anche forte. L'antenna esce, non avrà il guadagno di una mantova, di una 5 ottavi, sai, di quelle tecce, però se uno si accontenta, poi Gianni, alla fine cosa hai deciso, ti pieni il quarto d'onda o pieni la 5 ottavi, vero? Oh, te l'ho detto, sono tutta questa grossa differenza, non la vedo. Che piazza quella che c'era prima e si la faccia buio. Infatti, al limite puoi avere qualcosina di qualche watt in più per i DX, ecco, per esempio. Per arrivare dove l'uomo non è mai arrivato prima, tipo Star Trek, ecco. Attento Marco, si ascolti ora? Vai Tino. Bene, esce un altro, dai, vediamo se funziona questo. Premi la portante muta. Questo è il portante muta, dai. Oh, 6 e mezzo, ecco, come prima. Prova un po'. Così è staccato, Così è attaccato, ma sicuramente non sta andando. Allora, circa 6 staccato, attaccato 6 e mezzo. Io non so che dire, mi pare troppo uguale come segnale, che non dipenda da me. Gianni, cosa hai notato? Antonio, cosa avete notato voi? Vai Antonio. Lo sento un po' meglio io. Ehi, ma il segnale di quanto ha variato? Ma non neanche tanto, però lo sento meglio del radio. Il profeta? Buono, ho guardato lo strumento. Aspetta, prendo gli occhiali. Avanti, Tino, aspettate un attimino, e ora ha cambiato qualcosa? 1, 2, 3? Qua sei 9:15. Da te Marco invece? No, sempre 6 e mezzo, all'anima della differenza. Gianni deve essere proprio aperto. No, ma fagli vedere a Gianni lo scatto, la attacca e stacca. Va bene, guarda già, così attaccato. E così è staccato, attaccato. Dai, facciamo da 9:05 a 9:15, dai, la differenza. Staccato e attaccato, perlomeno. al mio strumentino. Vabbè, sempre poca roba, va bene. Bravo ragazzi, che sono volevano in pasta. No, ma da Gianni la differenza c'è, è come se stesse lavorando in modo corretto. Anche non c'è questo presidente Smith, presidente Rocco Barocco. Prezziamo le finocchio. Non lo so, Antonio, da te ha cambiato qualcosa? Forse tu sei più lontano, magari riesci a vedere un pochino cosa ha cambiato. Ciao, prova, attaccato e staccato. Vabbè, come la prima, adesso, così attaccato, guarda, 1, 2, 3. Si sente con 3. 3. Riattacchiamo, bene. Guarda, Tino, hai lo stesso segnale spiccicato a quello di Antonio, 9:15, quando sei attaccato. Aspetta, avete parlato assieme con Tino. Anto, quanto ti cambia Tino dall'uno all'altro passaggio? 1 e 3. Ma allora sta andando, allora è questo Smith che è incarinato. Vabbè, tieni conto che ho l'antenna molto bassa, ho una Grand Prix a livello circa 3 metri d'altezza da terra, quindi è una cosa giusto per ascolto, ecco, quindi non posso pretendere, non è la stessa altezza di quella che ho a casa. Ho detto poc'anzi che tu quando sei attaccato hai il segnale uguale specificato a quello di Antonio qua a queste coordinate 9:15. Caspita, già allora sta andando. Se te lo sto dicendo, staccato sei quasi 9:05, dai, attaccato 9:15. Io non sono a casa, Già lo so, Anto, già lo so. Marco, allora qualche problemino credo che hai tu, non lo so. Va bene, dai, grazie ai controlli, se coincide a dopo, che devo mettere un po' di silicone in una parte del camper. Ecco, essendo molto lontano, diciamo che con quella Grand Play, tutti gli ostacoli che ci sono da fare, diciamo che ti sento abbastanza bene. Caspita, non so io come ti arrivo, però va bene. Antu, già l'hai vista davvero, quella baracca verde che ti ho fatto vedere, dai, quindi in basso a basso. Già va bene, dai, non devo superare tutti i palazzi io. Ok, ciao, dai, che sennò mi si secca il silicon. Ci sentiamo più tardi, ciao, dopo. Ciao, ci sentiamo. Ciao Tino, allora, mettere in lista nera questo Smitter e poi la lancetta, non se ne salva uno, Io quando ti arrivo da quella parte, Tino, ma andiamo a mettere. Marco. 9, modulato 9:05. Cazzo. Vai, se dovrà un resto, vai. Cazzo, le 9:30 e non qui. Però Anto, io con 2:30 quasi 3 non posso arrivare lì 9:30, non con questa potenza risicata. 9:30 io posso arrivare a Coso che è qua a fianco, a Carlo, ma laggiù non posso arrivare a 9:30. Mi pare arrivo a 9:10, 9:15 a Pomponio, fatti il conto. No, ma io ci credo Anto che ti segna 9:30, però non è detto che sia esatto. Aspetta, chi era l'altro che ha parlato? Claudio, tu sei? Ti ho detto che a me mi arrivi 9:25 quando attacchi. Ciao Anto. No, ma così, con 2,5 o 3, come sono? Cioè Antonio 9:30, ma gli segna troppo gli segna. È possibile, ecco. 9:10 a me segna col K. Quello è più coerente. Claudio è circa 9:10, dai, modulati, 9:10. Quello vedi, è già una cosa più coerente. E questi Smith, Antonio, non se ne salva uno. L'unico che c'ha lo Smith affidabile è il Kenwood. A lancetta però, non quelli a LED, quella alla lancetta è già più. Però questi baracchini non se ne salva uno, sono tutti diversi i segnali, cioè non vanno bene. È impossibile, perché Dio ti ho di fronte, per quello cazzo che tu mi hai ripetuto sparato. Cioè, se guardo la linea da qua, tu sei di fronte a me, sei. Cazzo, mica non è assai lontano, mi nota a me. Cazzo, sono in via Luca degli Abruzzi, e il gatto te ieri in chi va via Lomberto. Cazzo, in linea d'aria, cazzo sarà. Mamma buffonendi, ti auguro che mi arrivi così forte. Io a confronto a te, Claudio, sono vicino a lui. Perché, cioè, se mi pongo una bicicletta, in 10 minuti arrivo a casa Giulia. No, senza un bel dubbio, quando ve lo segnali io, te avete colto io vedo col K o con addirittura in digitale col FT920. Sono segnali reali, tenete conto che io sono 6 km da Sassari, ok? 6 km da Sassari, quindi io Sassari non lo vedo, anche se sono in alto, perché sono sotto la vallata, però i segnali miei sono reali, non siete a fare. Tu ad esempio sei 9 più 5 adesso, Antonio, dal lavoro, ok? Da casa tua mi arrivi 9 più 20, quindi conta 15 punti in più. Marco 9 più 10 liscio quando attacca 9,25, Gianni è 9,10 liscio quando attacca 9,30, però c'ha più watt, è tutto una minestra. Sì, ma io ti sto dicendo che a confronto a te, Marco, mi di fronte, io linea d'aria sono di fronte a lui, chiaro credo che mi arrivi così sparato. Cazzo, mi arriva anche con l'altro apparecchio, quindi non è solo un vizio, no? Io se io metto il K qua, mi arriva forte, perché ne sono sicuro, io vedo più di fronte, lui a me. Ci sono i palazzi, ma con linea d'aria lui a me, qua, è di fronte. Cazzo, vedo a ginocchio, vedo, cioè non credo che mi arriva così sparato. Invece da te deve attraversare un po' di più, perché sei più lontano, capito? Grazie. E si conferma confermandosi. Vai Marco. Beh, proprio di fronte no, però conta che Antonio ha anche un'antenna bassa, cioè io già lo so da quella sede lì, dove c'è la stazione adesso, dove lui adesso, ma non è così vicino, non è proprio così vicino. Tu quando sei a casa c'è una bomba, ma lì sei più basso. E forse anche la distanza maggiore, io non l'ho misurata tanto linea d'aria. Se trova sul telefono, aspetta, vado alla ricerca. Claudio, le avevi letti come messaggi audio piuttosto? No, ecco, le mie finte sono in affia, adesso mi riguardo. Me ne sono arrivati anche altri, stavo innaffiando, adesso c'è fresco. Sino a voi non ha giocato. Invece a Claudio ce l'ho proprio da chi si abbassa il viraggio. Viraggio proprio così, viraggio, poi ti arriva più. Arriva un po' più forte di te, arriva. E anche tu sei leggermente più alto di Marco, 9,15, ho sbagliato, no 9,5, 9,15, capito? 9,15 con picchia 9 più 20. Da casa quando attacchi arrivi 9,30, quindi. Ma tu conta che qua cioè, ci sono 5 watt. Lo so, va bene, va bene, noi siamo più vicini, io linea d'aria sono più vicino di Marco da te, quindi è normale. È normalissimo. Chi è che voleva entrare sotto Antonio? Sotto però, non sopra. Ti ho detto sotto e quindi non mente più perché fai brutte figure. Ti metti a parlare sotto. Ciao Claudio. Tu eri sotto. Negativo. No, questo è questa portantina del Kaiser. Ciao Gianni. Ma la palla per scala di gioca è occhio. No, c'è una potentina a Santiago, niente di che. Infatti era sotto, molto sotto di te. Ciao Gianni, perfetto, riprende e fai girare per Marco, vai. Veia, non rimango portante io qua. Veia. Tranquillo. No, non ho sentita, ero distratto, stavo leggendo roba al computer. Tu da freccia, dai, avanti Marco. No, già che mettevi la portante, che hai parlato sotto Antonio, capito? Avete parlato assieme. Ah, ok, magari succede, dai. Succede con il grilletto più veloce del West. Capo, qua. Oh, capo, però ho detto che si occupa, io sento a tutti me. Sento quasi a tutti, no, non ho problemi. Marco, cosa, mi sul sorso sono un pochettino coperto, ma però io lo sento lo stesso. Tu che a Milano scemi, dove sei tu sono 200 metri dal livello del mare, dovrò io a 280, non pensa che sei basso, no? È basso di abitazione, sì, di cosa? Sì, basso di abitazione, ma già c'è il livello, sei lì nella piana, sei abbastanza aperto, che fai un'antenna così da fortuna, non è una grandissima antenna, ma se li metti 4 metri, 5 metri in palo e piatti una manta, va a sfarci il culo al grillo. Già, lo so già, sto cercando qualcuno un pochettino più performante. Sì, qualcuno un pochettino più performante, lì bevo una manta, va un bel dubbo, dubbo innocenti, e su che andiamo, ne vedi di disastro, anche giù giù. Gianni, l'hai montata l'antenna già? Non l'hai comprata? Stai sempre andando con la boomerang? No, c'ho la Venom di Marco, dai, adesso in questi giorni la smonto. Sì, tanto devo andare a lasciarla lì, almeno la usci. Sì, 9.5 abbondante, ultimo segnale anche tu, alla grande. Millumi, eccolo lui. Vai Claudio, com'è questo? Sì, Tino sì. Eia, dal fabbricatore di altre cose, dai. Dal negozio di lavoro, dal laboratorio. 9 Tino, S9 Radio Super 5. Aspetta che stacco, Cla. Così è staccato, guarda, dammi un controllo tu, così verifichiamo se Marco ha problemi o meno. Così è staccato un basso. Mentre invece così è attaccato. Sì, direi Bolivia, ottimo segnale lo stesso. Vai da 7 a 9, ottimo segnale. Ai ai ai, molto molto male. E lo smitter non sta andando. Hai visto Marco? Mi sembrava strano, Però vabbè, ho voluto provare con altre radio differenti. Andiamo bene. Va bene signori, che sono al lavoro. Con Rix per me. Ciao Cla, grazie. Ciao Muccolo, già ci vediamo. Fra un po' stiamo organizzando qualcosa nell'altro laboratorio, dai, già ci sentiamo. Sì, dai, rientro domani, va bene, dai, ciao. Gappa. Beh, Marco, io col gappa col segnale, te lo vedo. Ho commutato 430, 140, uguali, 7-9. Col digitale FT920, 7-9. Lì non si sbaglia perché quello digitale non è a LED. Quindi è preciso, sono tutti e tre precisi, un po' più sordo è il Galaxy, ma vabbè, è sempre un baracchino, però il tuo è messo male allora, No, sono strani sti smitter, cioè, arriva la differenza da 6 a 6 e mezzo, dovrebbe passare di 2 Santiago, salire di 2 Santiago, invece sono mezzo Santiago. Io non ho capito come cacchio li facciano, se è dura la molla, se è il dio dello androne, se... non lo so. Non lo so neanche io, però qua radio canta, quello è segnale, e quello è con tutte e tre. Le radio, preciso, ma l'avevo già visto io a Tino, che passa da 7 a 9. Ho già fatto qualche prova tempo fa. Va bene, avanti Gianni il profeta. Ai. Poi, sì, diciamo che quello smitter di Marco ha le ruvizie in busciacca, dai, come si dice. Questo vabbè, non sarà super attendibile, però più o meno è, si può prendere come referto, Oh, ragazzi, striscia gioco. Ma insomma, io gioco peggio di te, non cadrento. Si muore a vero, mi è proprio passato tutta cantata di nocchia, vedi? Eppure devo resistere. Si può? Arrivo subito, avanti si può. Buonasera a tutti, non più lunga questa parte. Ciao già. Ciao Gianni, arrivo subito, Marco riprendi. Eia, ciao Gianni, ben entrato. C'è il profeta, c'è Antonio, Claudio che adesso entra, esce e poi rientra. Vai Gianni. E io la saluto tutti cordialmente, riprendi Antonio e poi fai girare, vai. Cappa, ciao già, buonasera. Avanti Gianni. Ciao Gianni, buonasera, ben entrato. Ho sentito una chiamata bassa. Non so se l'avete sentita anche voi. Eh sì, l'ho sentito anch'io, sì. Ebbene già, alla fine com'è andata quella cosa? Ti sei parato? Cosa hanno fatto? Ci siamo divertiti, abbiamo cantato, ballato, c'erano balli di gruppo, diciamo, ma c'erano divertirsi. Ah, hai visto che non è così tanto difficile. E allora, siamo stati bene. Poi c'era uno con i trampoli che faceva il robot, era tutto illuminato, un bel bello qua. E niente, allora sono state, abbiamo, diciamo che mi sono divertito, ma ho giubilato due pizze in kiwi, me lo mangiate, c'era il tavolino per sedersi. No, io avevo da fare altro, quindi non sono venuto. E infatti la mia compagna mi ha detto, ma doveva venire anche Antonio, ha detto, non mi ha chiamato. Ma io sono stato chiaro, ti ho detto, quando devo venire, se vengo ti chiamo. Invece non sono venuto perché poi ho avuto altre cose da fare, chi ti hanno stati a sere. E vabbè, non fa niente, dai. E sarà per la prossima, dai. Tanto è stato uscito a mezzanotte il DJ, quindi siamo stati bene, dai. E mi sono divertito abbastanza. Bravo Etino, Bravo. E diciamo che è un po' serioso, però già è bravo. Sì, non abbia saiana, sennò già. Hai visto che non è così difficile? No, ma io ho cantato sì, ma non da solo, capito? Cantavo quando facevamo le canzoni, lui cantava anch'io, però quando stavamo sempre lì non ci andavo sul palco. Ah. Sì, vabbè, una di... Adesso forse devo farla io in via Sardegna. Dici, vieni in via Sardegna, ci divertiamo. Quando è il 16? Capito già. Non ho capito quando è il 16 adesso. È il 16 di luglio. Forse devo portare il mixer perché il suo non va. Se non gliela aggiusta lo devo portare io, ma comunque già. E ci divertiamo, cioè non è il mio, sarà il suo, ma gli attivi ti muovono a te, sì, per fare la serata lì. La serata un po' vicino alla guardia, un po' più giù della Guardia Medica. Ho capito, sì, ma l'avevi detto che lì. Ma che cosa è? Un circo dove si beve o che cosa? Beh, si mangia burro. Era già Giaffa, si mangia anche bene. Già deve farlo Costantino, deve farla Costantino, già è bravo, è una persona che fa divertire. Vabbè, là, se posso già ci faccio un salto avanti. Claudio, sei rientrato. Marco, avanti, ti fuggiti, già sono qua. Magari Marco si è spostato per assistenza, dai. Ah, Miguel, il 30 sicuramente partecipo a Latte Dolce, che fanno il coso, le karaoke in piazza fanno. Sicuramente devo partecipare. Il 30 di quando? Di luglio? Eia, adesso devono portare i corsi per l'iscrizione, perché io sono FENAC, quindi... Però lo fa l'aperto. Un cliente, ci stiamo dopo. E da lontano dove c'è la chiesa, dove c'è la tramonta, la festa, dove c'è una sala lì, tanto ma non mi senti? A clienti in bottega. Cavagliato, fa ancora la mola. Marco, sei rientrato? Siamo arrivati alla giura già, l'unici su questi. Oia. Oi. Esci che vado a dare una bella tassata di acqua fresca, qualche secondo poi rientro, dai. Vabbè, io già mi sono bevuto una menta e già va bene così, una bella menta con il ghiaccio. Chi è che fischia tanto? Parizzi? Oh, ci siamo! Ti abbiamo chiamato diverse volte e poi ho pensato che fossi andato a fare assistenza. Poi ho aperto la finestra, mamma mia, stavo spazzando a terra in cucina. Poi ho aperto le finestre perché io qua ancora avevo le finestre chiuse. Stava cominciando a scaldare un po' troppo, allora ho aperto. Sente questa bella arietta. Palle di estate. L'aria già è bella. Ma per il coso lasciare le finestre aperte, guarda cosa è successo a me l'altra notte. Si accende anche la macchina sotto casa, cazzo, e ci siamo svegliati, facevamo le finestre aperte. Ci siamo svegliati con tutto il fumo, tutta la casa invasa di fumo, ho preso il cane, ho tolto fuori subito, cazzo, siamo usciti fuori di casa perché non si poteva stare. Vabbè, quello è stato. Ma poi si è capito perché. Ah no, me l'avevi detto. Era una macchina che aveva preso fuoco in marcia, mi pare. Sì, qua l'unico fumo che entra è quello della gran piccola. Hai capito. Cos'è? Non ho sentito. Ho detto già, qua quando lascio la finestra aperta, l'unico fumo che entra è quello della gran piccola. Sì. Ehi, Troia, tanto ci hanno messo tutto il salottino lì mio, cazzo. Mi devo dire, non mi ha fatto ieri notte. Cazzo, ci ha levato tutto in aria, ha tutto buttato il cancello, tutto spaccato, tutto fatto a pezzi e buttato all'ecocentro, tutto. Tutto l'ho comprato nuovo, la mazza che mi rivali al vento, cazzo. Ah, lo sai che mi hanno tolto le canne dalle piante, c'erano le canne infilate per tenere le piante, ma le ha fatte uscire fuori, non capisco come cacchio l'ha fatta, erano infilzate dalla terra. Si è trovate tutta la terrazza montate le canne così. No, c'è un raffico di vento di notte allucinante. Qualche tromba d'aria di passaggio, perché qui c'è un temporale di passaggio, fulmini, tuoni, ha fatto un sacco di danno a me. Veranda ci ha fatto via tutti gli sottosaltini con i cuscini, le cose, i cuscini li porto dentro la sera perché ormai si sposano gli uccelli, capito, le tarantole eccetera, ma il cazzo saltino è uscito a 50 metri, è uscito, deve essere sollevato, buttato, proprio sbattuto alla recinzione, al muro del giardino, l'ha fatto tutto a pezzi. Ho sentito che c'era un vento forte, anche perché c'era una greffa che ogni sera si mette sotto casa sino alle 4 di mattina cantando, facendo casino, non si riesce a dormire. E ho sentito che c'era questo vento forte, ma raffiche più. Raffiche fuori, lì si la vede una disobbedire. Non c'è problema, ho telefonato al 113, dopo mezzanotte la gente si deve mettere in testa che casino non se ne può fare, né nelle strade e né nei condomini. Bisogna stare in silenzio e in educazione, però c'è molta gente che queste cose le regole non le capisce e continua a fare in testa sua, capito? E allora vabbè, ci sono i dovuti modi, fino a quando i modi rimangono stabili, quando poi uno esce di testa, allora succede il danno, come è successo, no? Capito? Gli ho pigliato la vittura, è andato, e adesso mi ha rotto le balle, boom boom, era gambizzato. Vabbè, ma siamo stati tutti ragazzi, Claudio, ma noi se dovevamo fare casino ci andavamo a Plattamona nella spiaggia e suonavamo la chitarra sino alle 4 di mangiare e cose, tante vanno, ma noi non disturbavamo nessuno, capito? Andavamo lì alla rotonda, non rompevamo la balla a nessuno, e invece qua non hanno criterio, lo fanno sino alle 4, nessuno gli dice nulla, tutti si lamentano nel palazzo, però non fanno niente, e allora cosa fai? E cerchi di sopravvivere, di convivere così, cosa devi fare? Lo so, no, non avevamo come mettere a Piazza Garibaldi, capito? Quando abitavo io a Porto, se Piazza Garibaldi non aveva nessuno, c'erano due case vecchie, quindi pensavamo lì e facevamo balluria sempre, però sempre nei dovuti modi, con molta educazione, oppure ci andavamo al Porto, capito? Il posto non era così, allora già te lo ricordi com'era, il Piazza Colombo non esisteva, quindi vabbè, però adesso la gente è diventata molto molto maleducata, non conosce le regole, pensa che tutto sia dovuto e che tutto possa fare, però non funziona così, ci sono delle regole da rispettare, vanno rispettate, punto, avanti Marco. Sì, ciao. capisci quando è il discorso tra vento, coso, greffe, eccetera. Adesso un'altra cosa. Indovinate chi ha chiamato poco fa per la seconda volta, in pochi giorni, la seconda volta perché chiama. E chi? E io Gianni, un mio vecchio amore. Falcone! Nasu, sì, è la seconda volta che Paoletto Miccoli chiama, perché aveva questo vecchio numero, aveva allora provato a chiamare, eccetera, già ha risposto mamma però, e dice che domani è il suo onomastico, e dice sì, mi farebbe piacere che Marcolino mi facesse gli auguri, da sorpresa li faccia domani. Tanto la si ricorda di te. Ebbene sì, ebbene sì. Marcolino Condo, ai. Era il suo amore, era Marcolino Condo, mamma mia, cosa ride era. Quando entrava nel canale dove ero io, mi fai dimmi Falcone. Vai dimmi Paolo, se no mi fai incazzare. No, sto cercando Marcolino Condo. Non c'è qua, avviati. C'è. Ma guarda cosa è andato a pensare, poveretto, ma deve essere. Deve essere solo, mica non sa cosa fare, come passare il tempo, ormai è anziano anche. Ci vorrebbe un bel baracchino, eh? Almeno passa da qualche oretta, tanto adesso i tempi passati sono, cioè, quello che li combinavano una volta non glielo combinano più. Ehi, vabbè, va a far casino, capito? Stremo recato. Comunque sono sicuro che a te ti abbia fatto piacere che ti ha cercato, eh? Sì, guarda, sono tutto incruschiato. Mi ha fatto piacere, di la verità, che si è ricordato di te, ah! Quanti anni ha adesso Paolo Falcone? Cacchio, allora fammi fare il conto, io sono entrato nell'84 e lui stava compiendo o 29 o 30 anni, fai che fossero 29 nell'84, infatti il conto, siamo nel 2022. Più grande di noi è già. Eia, è stato, sì. Io una volta solo, guarda, ne ho avuto pena, non conoscevo, non sapevo nemmeno che era malato e cose. Ne ho avuto pena e sono andato a prenderlo, mentre ci viene a prendere il mio io ho detto che stavo scendendo a Porto Torres e non farmi la macchina. Allora io la lavavo, hai presente dove c'era la cartonera, c'era un vascone, gli lavavano tutti la macchina, te lo ricordi tu? Venuto già in buscio, grazie in chi era buscio. Sta per sta che, dammi i porti, non più lui, ha detto va bene, vieni. È venuto tutto vergognoso con la testa bassa, e poi non ti devi vergognare, dai, siamo tra amici, questo e quell'altro, e te l'ho portato a Porto Torres, e mentre stavo lavando la macchina lo vedo come era inchinato, con gli occhi attaccati alla vetta, e metto doppio non posso sollevare la radio, ho detto vabbè, ma non troppo, mi sollevala e non dire niente che sei venuto con me, tanto come sono attaccato, ah, ah, sapete con chi è? E tutti quanti, ma cosa ne fa? Tutto il Dio, chi sei di là, tu? Sì, vabbè, cosa ne fa, poverino. E noi, quando parliamo degli anni, lo porteremo a giocare a pallone, cosa entra? Va. E quindi Marcolino Attino mi ha chiamato mia moglie. E l'avete messo la scuba alla barba, già me lo ricordo, nei capelli, tutto in faccia. Allora. La partita CB contro. Chi era qua? Aspetta, siamo riprendendo sempre in due. Vai. E dalle. Vai tu già. Ah, riprendi tu. Stiamo premendo. Perché come premi tu stavo già prendendo allora, mollo subito e molli subito anche tu. E Paoletto purtroppo però c'aveva quel vizio che Modigliani lo portava qua là le partite a coso, poi però dietro al telefono mi dice Scori che erano due stronzi, lui e una moglie, cioè c'aveva la lingua tagliente Paoletto, cioè più lo trattavi bene più te ne diceva dietro, e allora poi lo mandavano al diavolo tutti. Era malato Marco, cosa vuoi fare, a me il padre me l'ha detto. Volevo fare uno scambio, gli davo un portatile e lui mi dava un baracchino 120 canali, ho detto vabbè non c'è problema, sono andato lì e il padre mi ha detto ascolti, venga, mi scusi se l'ha fatto venire, ma se lui gli dà un portatile a Paoletto, quello parla in mezzo alla strada e lo mettono sotto, purtroppo dice io sono malato, ma baracchini sa quanto ne posso comprare quei soldi che ho, non ne compro portatile per quel motivo, mi scusi però non gli dia il portatile perché se no me lo ammazza quel figlio, così mi ha detto, era quel cattolo letto il padre, non lo ricordo ancora. È vero, me lo ricordo quell'episodio che mi ha raccontato. È come questi decerebrati di adesso col cellulare, attraversano la strada senza guardare né a destra né a sinistra, senza guardare il senso della zebratura, nulla, si buttano. E gli occhi fissi sul cellulare. Ogni tanto mi tocca inchiodare per evitare di schiacciarne qualcuno. Eppure devono capire che loro sono come le... vale anche per il pedone non può attraversare la strada col cellulare neanche in mano, capito? Non solo telefonando. Come per gli automobilisti, stessa cosa. Sì, sono distratto. Io guarda, vicino a casa di mio amore spassano queste donne, quasi tutte donne sono, con il cellulare in mano e sparate senza guardare la strada. Se attraversa qualcuno lo gazzigheggia. Ma poi il bello che ce li vai a dire qualcosa. Se ne dicono quattro. Donne o non donne, adesso sono tutte sboccatemi, anche signore grandi, vai, girami i guglioni, vabbè che. Un certo tipo di donna può rispondere così, non tutte. Però vedo che la maleducazione sta dilagando parecchio, non è solo questione di bambini, ragazzini, anche genitori, anche gente grande, ormai è tutta... parte direttamente con lo ragazzo voi, ma lo ragazzo dirigente, ma... non lo so cosa sta succedendo, eppure magari erano quelli che da giovani... vabbè, è difficile da spiegare. E ti ho capito, magari erano brave persone e poi sono diventati caffoni, dai, quello che vuoi dire è quello. E non conviene manco dire niente, Marco, perché se quello che trovi... adesso c'è gente che gira armata, gira, come la dite nulla, ma guarda, io l'altro giorno stavo passando col cane sui passaggi pedonali, tra l'altro quelli che sono dipinti di rosso, beh, è passata una macchina, mi ha solo deviato perché sono riuscito a ridare la strada, mi ha deviato solo, ma manco fermato. Cioè ti ha schivato e boh. Esatto, mi ha schivato. Cosa devo dire? Cioè stava era sparato, capito? Mi ha visto e sempre col cellulare in mano. E io, vabbè, ormai con i social sono bruciati il cervello le persone. Sono sempre incollati, sempre incollati. Io certe volte a casa lo butto da in qualche stanza e poi devo andare alla ricerca del cellulare. Senti, qualsiasi che siano al cesso, che siano a scuola, che siano in macchina, sempre incollati a questa tavoletta rettangolare, è una cosa folle. Anche io sono un po' preso, guardo TikTok, Instagram, Facebook, Messenger, poi WhatsApp, vado a cantare su Star Maker, insomma un po' sono preso anche io. Comunque poco fa hai capito esattamente cosa volevo dire, cioè una volta c'erano persone che erano molto corrette, molte cose, anche con i figli non pretendevano, volevano i figli da bambini non fossero maleducati, insomma erano abbastanza autoritari con i figli, e, insomma persone corrette, sembra che invecchiano e si siano adeguate ai tempi, capito? E i figli pure. Si siano adeguati ai tempi, siano ingrediti con l'andare dei tempi. Tutto permesso adesso, come la storia delle schitarrate, ma la polizia non fa una minchia. Non esisteva il coso, il reato di stupro della quiete, o è stato abrogato anche quello? Non è stato abrogato, ma se chiami la polizia non ci viene, capito? Non vengo, dico sì, stanno arrivando, non ci vengono, capito? Fanno così. Perché è successo già altre volte che l'hanno chiamata e non ci è venuta. Però cosa devi fare? Un tipo di lì attaccati con 20 persone che cantano e suonano, ma non sono solo uomini, ci sono donne, ci sono bambini in mezzo, ci sono i quattro di Bancaro più bambini piccoli, capito? E tutta gente, e inoltre che ci cosa per ragazzi, se sono i genitori che sono peggio dei ragazzi. Sento un usignolo che canta in lontananza. Elena, Ah, si sente. Sta facendo, sta provando. Sì, sentiva. Ma che ci è rimasto qua? Antonio, il profeta Claudio, facciamo un po' una... Io mi stavo tentando di mangiarmi un gelato, adesso stacco appena, se no non ci riesco. Il profeta c'è ancora. E che gelato ti stai mangiando? Io mi sono mangiato uno di quelli al tartufo, ma era buonissimo, c'era il caffè sotto, il caffè zuppato, ma è buono. Tartufo e... come si chiama? Panna e caffè. Io adesso mi sto affogando con un affogato alla spagnola. Ah, l'ho mangiato ieri quello spagnolo, quello però troppo dolce, quello con le ciliegine sopra, l'ho mangiato ieri. Avanti chi chiama, avanti, che è avanti. Ti ascoltano a basso, dove sei? Milano, via Milano. Ti ascolto in mezzo al QRM, non lo so se sia a Milano veramente o se sta scherzando, C'era propagazione prima, questi segnali, Sud Italia. Va bene. Se siamo a Milano, sta arrivando un po' bassino, capito? C'è QRM, la propagazione qua. Qua siamo in Sardegna, la città è Sassari, l'operatore è doppio rum, Gianni doppio rum, avanti. Chi è? Avanti. Non ce n'è Scagliola qua, non c'è Scagliola, se vuoi parla, i fischi non dicono niente, avanti. Da dove chiami Gappa? L'isola della Sardegna, la città è Sassari. Sud Italia, Puglia. Gappa, collega di Lecce, l'operatore Gianni Dupiuru che ti supercordializza, avanti. Ah, ok amico, stazione Delta Lima, con nome di... Cappa, Delta Lima, mi hai sentito, cordialità anche a te. Sono in compagnia dell'amico Marco Condor, vediamo un po' se si è liberato. Avanti, Marco. No, no, fai tu. Vabbè, dai, Marco è impegnato a mangiare il gelato. Va bene, comunque ti ascolto abbastanza bene, Santiago di 7-8 e la radio è 4. Vai. Santiago 7-8 e Gappa Gappa, dai, la propagazione si sta aprendo piano piano, non è ancora aperta bene, ma comunque ci si sente e questo è l'importante. Lì a Lecce 27 parlamentanti. Ah, ho capito, dai. Sei in vacanza? Nel quello della estiva che chiaramente è casa a Lecce. Ho capito, dai. Vabbè, noi già siamo vicini al mare, in 10 minuti siamo arrivati, non c'è problema. Abbiamo una grande spiaggia qua vicino, poi c'è Alghero, c'è Stintino, c'è tutta la parte bella, diciamo, della Sardegna. Una parte della Sardegna e poi ci sono tutte le altre parti, le altre coste che sono molto belle, Santa Teresa, Palau, eccetera, eccetera. Molto ricco. Oh, va bene, ci sono i pieroni, dai. Per fortuna quest'anno è andato bene, dai. Anche andando molto bene, Covid, che non si è, che non ho, e ci ritroviamo poi a settembre-ottobre. Mi sa che questa qua è una cosa che continua e non finisce mai, boh. Io pensavo già che fosse quasi debellata, adesso sta aumentando di nuovo. Ma comunque, bene o male, stiamo riuscendo quest'anno a andare avanti col turismo, dai. Dichiarano l'albergatore che c'è il pienone, quindi va bene così, dai. No, assolutamente, chiaramente, perché si parla che il picco dovrebbe arrivare verso fine luglio. L'importante è che si possa trascorrere una... Beh, certo che sì, dai. Si pensa un po' a tutti, tutti quelli che devono lavorare, baristi, camerieri, cuochi, eccetera, eccetera, albergatori. Cioè quella gente lì aspetta proprio l'estate per lavorare bene, dai. Amico, io ti devo lasciare che devo fare un trabacco. Ci vediamo tanto che la propaganda migliore, anche se arrivi abbastanza. Una buona serata, grazie per questo. Grazie a te, buona serata anche a te, un abbraccio dalla Sardegna. Kappa e Kappa di Roggero. Perché non sei entrato a salutare Lecce? Adesso sono arrivato e sono fuori. Stavo caricando roba nella macchina a buttare via domani. Ah, ecco. Oh, you're that guy. se mi passa questo dolore, no? Guarda, sto aspettando un po' che mi passi, perché andarci così non riesco manco a sedermi, cazzo. È un casino, se mi siedo non riesco più a alzarmi. Qual è l'altra gamba adesso? E allora, adesso c'è l'altra gamba, sicuramente sarà da operare. Mi schiaccia bene il PTT, è un casino. Io ho l'artrite, ne sto facendo la cura, non esciami domani. Il mio medico mi ha fatto un integratore anche, con le ossa, ne ho già avuto volte, purtroppo già. Arrivati a una certa età, iniziamo gli acciacchi, non quello che va. E magari siamo anche noi che abbiamo strapazzato troppo gli arti. Chi ha fatto lavori del genere non succede, succede a chi ha detto il dottore, succede a chi fa palestra, fa sollevamento pesi e chi ha lavori pesanti, questa roba qua. Se no agli altri non succede perché le ossa lavorano bene, non fanno sforzi. E io prendevo 3-4 pacchi alla volta e mi ricordo sempre una notizia, diceva Gianni, prendi da uno a uno, ribacchi, da voi a mai da chi fisico di domandare un conto, io ogni volta che mi fa male mi ricordo di quell'autista. Io la stessa cosa, io già quando sono entrato dove me ne sono andato, in pensione nel 91 non ce n'erano camioncini con la gru, non ce ne mandavano, le pompe stradali di quelle da 4 kg che pesano 150 kg l'una, le tiravamo a mano con la catena in due, capito? Le tiravamo su e pure non le facevamo calare lo stesso nella guida con la catena, le griglie lo stesso sono tutte manuali, quindi un disastro, forzato un bel, anch'io ho forzato un bel, pesi a tutto andare, senza poi contare il freddo e il gelo che ho preso. Non tanto quando ero a Cagliari, ma quando sono arrivato in Gallura, andrò a Gallura, mi ha freddo d'inverno, grazie quando ero a tempio, porterebbe a lavorare con i dopo sci, a prendere pure dei contattori, tutto il paese è pieno di nervi, è tutto un casino, ma lascia perdere. Hai ragione il tuo amico, e poi ci chiede il conto, perché te lo chiede il conto, c'è nulla a fare. Io quando lavoravo prima a Traspalerite si non vendevano, e le pedane dell'acqua, le pedane pesanti, le prendevi tutte quante del latte, dell'acqua, dei pelati, tutte quante con Traspal a mano. Io proprio poco prima che andare in pensione, 2 anni prima, hanno comprato i Traspal elettrici, e allora con quelli si ragionava. Lo so, a noi tutto a mano. Tutto a mano Gianni, tutto a mano, capito? Tutto a mano. Adesso ogni squadra c'ha il camioncino con la gruetta, capito? Interviene, ti solleva le pompe, te le rimette, ti sposta qualsiasi cosa, non tocchi niente a mano, tutto elettronico, le griglie sono tutte elettriche, tutto, tutto elettrico, tutto elettrico. Prima era tutto manuale e poi succede che arrivi al conteggio, e già mi arrivi da me al conteggio, guarda che manco a dormire più, di notte non ho chiuso occhio, gira che ti gira, faceva male tutto il fianco, le braccia mi soddormentavano, le dita delle mani, i gomiti, i polsi, le ginocchia, lascia perdere. E vabbè, kappa. Ascolta, stavo dicendo, ma te se non sta soffrendo il caldo? No, ma che sempre in terra, e si cambia anche di posto. L'altro giorno gli ho fatto la doccia, è stato fermo, non è baruto io che gli ho fatto la doccia. Ho fatto la doccia, lo shampoo, tutto quanto, l'ho fatto diventare un bijou. E niente, ogni tanto gli do una sfruzzatina anche col vaporizzatore, una sfruzzatina d'acqua con i vaporizzatori per passare il vetrillo eccetera eccetera, che sono lavati bene, vabbè, devo spruzzare un po' e non rimane vino. Non soffre perché cambia anche il posto, si mette al fresco, poi si gira, ma di nuovo prima lo saliva sul divano, andava adesso a materassina, adesso è sempre in terra. Anche il mio è fatto preoccupato, ho detto, non sono sempre Gianni, lo dico, poi sempre lì lavora, sempre uscito, cazzo. Anche ieri notte, cazzo, quando ho dormito, mi riescono a dormire a fianco a me. Intanto si alzava il materassino, si metteva nel pavimento, poi di nuovo il materassino, poi il casino all'entra e esciva, casino. temperatura, la casa è fresca, boh.